Stanne fuori, tu stanne fuori. Lascia stare la situazione familiare che ho e quella che hai. Quando crescerò e crescerai capirai che è normale sbagliare, verrai. Lascia stare, se quei problemi non ti passano mai, capirai che le persone non cambiano mai. Strascica parole, frasi come sassi pieni di fiume, con la pausa di silenzio, con scuse uguale persa nei ragionamenti, alza la stecca degli occhiali, lascia condensare i suoi pensieri, i suoi parenti, gli occhi ancora velati dalle briciole dei sogni, mentre sonno scopa arriva accanto a lei, lentamente prende forma come tanti nei, l'insicurezza che mette in pianto i suoi orizzonti, quando hai paura irrigidisci i muscoli del collo, tocchi i capelli in maniera scombinata, giochi con le mani, con qualsiasi getto a tua portata, passa in fretta gli occhi per vedere l'ora al polso. Se guardi nelle tasche dei tuoi fantasmi giovanili trovi briciole ironiche d'amarezza. Forse affronterai il futuro con fermezza, forse piatto su un cuscino che rigira. Lascia stare la situazione familiare che ho e quella che hai. Quando crescerò e crescerai capirai che è normale sbagliare, vedrai. Lascia stare, se quei problemi non ti passano mai, capirai che le persone non cambiano mai. Il silenzio ha mille più interpretazioni, tu ne conosci sfumature, ne capti variegate vibrazioni. Distingui l'imbarazzo di quelle conversazioni dove le parole sono vuote, grovigli di suoni. Piedi per terra, mente fissa verso i tuoi progetti, perché le illusioni sono il pane dei perdenti. Tuo padre nella vita ha vinto, così pensi, ti ha cresciuto col cinismo che trasuda dai tuoi gesti. Negli occhi spenti leggo chiara la menzogna, la storia di una bambina che ha deciso di credersi donna, che si vergogna quando sogna ad occhi aperti, ti ha svuotato i suoi cassetti fingendo che non le tolga. Ma la tua stanza è così grande, è troppo fredda, e tu ci affoghi tutta l'amarezza di chi vive sola. Rimpiangi una spensieratezza dispersa, dentro di porti il gelo e non c'è nulla che lo smuova. Lascia stare la situazione familiare che ho e quella che hai. Quando crescerò e crescerai capirai che è normale sbagliare, vedrai. Lascia stare, se quei problemi non ti passano mai, capirai che le persone non cambiano mai. Sui tuoi genitori giocano chi parla forte contro il muro, come se non cambiasse niente, tutto resta uguale. Ma te, sebbene con ogni giorno presente e futuro, lascia in bocca la stessa amarezza di sale, cene, pranzi sembrano tormento, quando sei a tavola senza argomento, se non quello che evitate. L'aria pesante tra gli affetti e silenzio condisce la malizia della gente di cui vi cibate. Tu vuoi scappare, allora dimmi cosa ti trattiene. Nuove barriere mentali, cibo di vecchie chimere. Se cerchi un altro spazio supera queste frontiere. Forse conviene che ricerchi la tua svolta. Di fronte a un video due diverse direzioni, una si chiama libertà, l'altra la strada delle imposizioni. Adesso scegli se è il destino degli ignari, quella vita da schiavi che ha ucciso i tuoi genitori. Lascia stare la situazione familiare che ho e quella che hai. Quando crescerò e crescerai capirai che è normale sbagliare, vedrai. Lascia stare, se quei problemi non ti passano mai, capirai che le persone non cambiano mai. Stanne fuori, tu stanne fuori. Lascia stare la situazione familiare che ho e quella che hai. Quando crescerò e crescerai capirai che è normale sbagliare, vedrai. Lascia stare, se quei problemi non ti passano mai, capirai che le persone non cambiano mai.